Noi due siamo fratelli e siamo Salvatore. Pure a due, l'8 dicembre cos'è? Immacolata. Ciao a tutti, siamo Alessandra e Benedetta e questo è Another Beach Podcast. Siamo a Sovereto, ad Isola di Capo Rizzuto, in Calafrica. Siamo arrivati qui nel 2016 con l'idea di diffondere un tipo di vacanza altro, diverso, lontano dallo stress e dalla quotidianità. Abbiamo provato ad ascoltare alcuni dei campeggiatori e delle campeggiatrici, chiedendogli qual è il senso del viaggio per loro e cosa li aspetta una volta tornati a casa. Dopo il brano Blowing the Wind di Bob Dylan dall'album Free Wheeling del 1963, vi faremo ascoltare le loro voci. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Allora, quello che mi aspetta fuori di qua, beh, sicuramente un altro festival musicale e un viaggio di ritorno e poi, come diceva il mio insegnante di Reiki, il tarallo, che poi dopo si rientra nella quotidianità, quella che dicevamo prima, e bisogna ricominciare a lavorare su di sé e fuori, no? Quindi questo, però vediamo, secondo me andrà bene, cioè parto gasata questo settembre. Lo scopo del mio viaggio è staccare, ricercare dentro di me e crescere. e l'approccio, il mio approccio al viaggio purtroppo un po' come capita, perché sono una persona che è un po' disorganizzata e quindi solitamente parto senza, mi lascio sempre qualcosa indietro, ecco questo. I motivi che mi portano qui a vivere il campeggio sono lo stretto contatto con la natura e il fatto che si può stare a piedi scalzi tutto il tempo, che a me piace tantissimo, e le persone che abitano questo campeggio, perché qui ci sono degli amici storici che sto ritrovando in questo periodo, e questo basta, credo. Lo scopo del mio viaggio è sicuramente trovare luoghi in cui condividere esperienze con me, mio figlio e altri avventurieri come me. Mi approccio al viaggio organizzandomi al meglio, cercando di portare il meno possibile solo ciò che serve, in uno spirito di essenzialità. Come fa la gente a argomentare così poco? Ma lo scopo del mio viaggio, era innanzitutto staccarmi da Milano, direi. Però di dare un po' di pace al mio cuore in questo periodo. E se posso dire, il vero scopo che poi mi si è chiarito dopo è che il viaggio ti ricorda che non esiste solo la quotidianità, no? Che quello che tu vivi tutti i giorni è la tua vita, ma la tua vita può essere 100.000 cose diverse, quindi di stare in connessione con tutto quello che accade fuori dalla tua piccola nicchia. I motivi che principalmente mi portano a scegliere una vacanza in campeggio sono il ritorno alle origini, alla semplicità, alla natura, al contatto con le persone e alla socialità. Fuori da qua mi aspetta... Cosa mi aspetta? Fuori da qua mi aspetta un altro viaggio, diverso, ma sicuramente un altro viaggio, una nuova scoperta. Now's the time to go and play. I say it to Father Sweeney, need no work today. That's okay. Close the shop and lose a key. Forget you ever heard of me. I'm going fishing. No telephone where I'm at. Don't send the mail. Feed the cat. I'll be back when I'm done. Tell them all I've gone fishing. Work is fun and I don't mind. As long as I got fishing line, I'll be okay. Who needs pay? It's been real and it's been fun, but I just got to quit and run. I've gone fishing. Ma lo scopo del mio viaggio, diciamo che è quello ideologicamente di portare la mia disciplina, che è quella del beatbox, a più persone possibili, cercando di far capire loro magari le peculiarità, le strutture, quindi dalla base a qualcosa di più avanzato, però cercare di diffondere questa disciplina il più possibile. Fuori da qua mi aspetta un po' di caos e confusione e poco tempo in realtà per decidere cosa fare. Lo scopo del mio viaggio è scoprire cose nuove, persone interessanti, come mi approccio al viaggio, mi approccio con curiosità e sicuramente dimenticando qualcosa che dovevo mettere in valigia e poi scopro quando mi serve che non l'ho presa, di solito va così e questo mi offre spunto per nuove relazioni, nuove conoscenze, perché mi mette in contatto con le persone che potrebbero aiutarmi. I motivi che mi portano a fare vita da campeggio sono quelli di vivere la natura, esperienze nuove, conoscere più gente possibile in una cosa che si può definire una bellissima comunità. Oppa, difficile questa, proprio domandina. 20 secondi. Cosa mi aspetta fuori da qui? Non lo so, un po' sono terrorizzato, perché uscire da qui vuol dire ritornare alla routine quotidiana e un po' allo stress della città, invece qui si sta bene, è un'oasi di piacere personale, secondo me, insomma è più facile ritrovare il proprio piacere. I motivi per cui scelgo una vacanza in campeggio sono le notti sotto le stelle e gli alberi, il fatto che in un posto come questo, dopo un paio di giorni, conosci più o meno tutti i visi delle persone che ti circondano e si crea un po' quella situazione di famiglia, no? Quindi vabbè, hai tipo i tuoi vicini, che sono quelli che vai a salutare la mattina, però poi cioè, siamo un po' tutti insieme e questa cosa di essere così vicini al mare, così in mezzo alla natura mi piace. E poi l'altra cosa che mi piace del campeggio è che muta forme, cioè ogni giorno è una situazione diversa perché c'è chi arriva, chi va, e quindi questa cosa crea un continuo rimescolamento. Ti permette di capire la dinamica dell'occupazione dei territori, cioè nel senso che tu arrivi lì bello bello con la tua tenda, cioè poi nel mio caso specifico io sono arrivata con un campeggio già quasi pieno pieno, quindi ero io l'invasore, no? Che arrivava e si piazzava a fianco alla gente. E poi dopo la situazione si è invertita perché tutto il gruppo della prima settimana se n'è andato. E vivi questa cosa del, cioè del sì, no? Che tu ti crei il tuo ambiente, poi arriva qualcun altro e ti si piazza vicino, cioè, ed è un patteggiamento, questa cosa non è scontato, stare bene in campeggio. Quindi questa è una cosa interessante che ho osservato questa settimana e si connette al discorso del fatto che il campeggio muta forme, che dicevamo prima. Mi aspetta l'inferno, il ritorno alla quotidianità, il traffico, la città, le persone, lo stress, la poca fiducia nell'altro, la merda per strada. I motivi che mi portano a scegliere una vacanza in campeggio sono sia di natura socievole, diciamo sociale, perché chiacchiero con tutti, conosco un sacco di persone, sono attaccato al mare in questo caso, però insomma solitamente sei abbastanza vicino anche al mare o alla montagna o al posto dove poi fai la vacanza, e poi anche economicamente insomma sicuramente è meglio che è più cheap che in albergo o in strutture diverse, ecco. Quindi questi sono i tre motivi, direi. Come mi approccio a un luogo o al viaggio in generale? Sicuramente con tanto rispetto, cioè quindi partendo da una posizione di umiltà, no? Io cioè, sto arrivando in un posto, non conosco niente, però rimanendo aperta a quello che può succedere. E una cosa bella che dico sempre del viaggio è che il viaggio è un po' un acceleratore di particelle, nel senso tu nel viaggio sei costretto a tipo focalizzare bene quello di cui hai bisogno, quindi quando inizi poi a muoverti per lo spazio vedi che situazioni ci sono, quali sono le persone che ti circondano e cerchi quello di cui potresti avere bisogno, che siano amicizie, sorrisi. Perché è la prima esperienza che faccio in campeggio, appunto per questo forse l'ho trovata entusiasmante, emozionante, sono stato molto in comfort, poi è molto racchiuso, quindi al di là del fatto che ci sia gente che va e viene, hai molto la sensazione di comunità, di diciamo famiglia allargata, per cui sei anche molto più a contatto con la natura, io lo preferisco, per cui io dico se dovessi tornare in campeggio è per questi motivi. Cosa mi aspetta fuori da qui? Non lo so, un po' sono terrorizzato perché uscire da qui vuol dire ritornare alla routine quotidiana e un po' allo stress della città, invece qui si sta bene, è un'oasi di piacere personale secondo me, insomma è più facile ritrovare il proprio piacere e se stessi senza stress, ecco. Quindi ahimè so che fuori mi aspetterà un po' più di stress, però magari mi porto qualcosa, qualche buona nozione per vivere in città più in campeggio, ecco. Mettiamola così. Lo scopo del mio viaggio è quello di conoscere e vedere più luoghi possibili e l'approccio è quello di trovarmi a mio agio in ogni luogo. Fuori di qui mi aspetto di ritornarci a brevissimo perché sono stato molto bene qua. Portate le carriole in direzione.